Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, un mercato, quello dell'auto, che torna con il segno positivo dopo 7 mesi consecutivi di flessione e un agosto sostanzialmente stabile. Il mercato di settembre totalizza più 156.000 immatricolazioni, in crescita del 9,5% rispetto al settembre del 2019. Lo fa sapere Anfia, che restituisce anche il consuntivo dei primi 9 mesi dell'anno, segnati ovviamente dall'emergenza Covid. Siamo fermi ad un meno 34,2% rispetto ai volumi dello stesso periodo dell'anno scorso. Tra l'altro ascolteremo tra poco un nostro ospite di Anfia per parlarci anche dei rischi legati alla Brexit. Il 43% degli incidenti avviene nei primi 10 minuti di guida, è quanto rilevato da Dolphin Technologies, l'azienda austriaca specializzata nei servizi telematici per il mondo dell'auto. Gli esperti hanno analizzato più di 3 milioni di spostamenti in auto, durante i quali si sono verificati circa 2.000 incidenti, e hanno scoperto che quasi la metà, il 43% appunto, dei sinistri avviene a pochi minuti dall'inizio del viaggio. La possibilità di incidente diminuisce con il passare dei minuti al volante, e la spiegazione più plausibile sarebbe legata alla distrazione. Appena saliti in auto si è ancora poco attenti e ciò potrebbe dare origine a comportamenti poco prudenti. Calo di oltre il 20% delle revisioni nel primo semestre del 2020, stando ai dati dell'osservatorio Autopromotec. Nei primi 6 mesi del 2020 gli italiani hanno speso circa 400 milioni di euro per far revisionare le loro auto, il 21,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. A pesare ovviamente l'impatto della pandemia, lo scaglionamento delle scadenze fino al 28 febbraio 2021 è introdotto dal decreto semplificazioni. Euro NCAP ha presentato i nuovi protocolli di verifica della tecnologia per la guida assistita. I test 2020 hanno analizzato circa 10 auto dotate di sistemi di livello 2 e si sono concentrati in particolare sulla funzionalità Highway Assist, integrando la prima campagna di prove del 2018. Ne è emersa un'affidabilità in costante crescita, con miglioramenti notevoli sui sistemi di guida assistita, ma con ancora qualche criticità nel dialogo veicolo-conducente. E come vi avevo anticipato poco fa, cambiamo argomento perché parliamo di Brexit. Sembra un problema molto lontano da noi, ma in realtà tocca da vicino tutto un settore produttivo del nostro paese, compreso il ramo dell'automotive, perché noi abbiamo un'industria della componentistica che ha nell'Inghilterra un mercato particolarmente importante. Allora, per fare un po' il punto della situazione, il nostro ospite oggi, Marco Stella, che è il presidente del gruppo componenti di Anfia, ma anche il vicepresidente appunto della associazione di riferimento per il mondo dell'automotive italiano. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Allora, dicevamo, stiamo seguendo con grande attenzione l'evoluzione degli accordi fra Unione Europea e Gran Bretagna, insomma, per gestire la vicenda Brexit, anche perché, come dicevamo, questo mancato accordo, quello di cui si parla in queste settimane e in questi mesi, potrebbe avere delle conseguenze importanti per una parte importante del nostro mondo produttivo. Innanzitutto vogliamo fare un attimo il punto della situazione. A che punto siamo? So che fra qualche giorno, credo a metà ottobre, ci dovrebbe essere un Consiglio europeo in cui si affronta il tema in maniera abbastanza incisiva. Sì, il punto, in maniera molto semplice, è che mancano ormai 12 settimane alla fine del periodo di transizione della Brexit. Chiaramente sappiamo che le diplomazie sono al lavoro, che l'industria, le industrie, i settori stanno facendo grande pressione, certamente al momento non ci sono dati. Noi dal principio l'automotive, che è un settore strettamente interconnesso a livello europeo, ha chiesto a gran voce, costruttori di auto, componentisti, tutta la filiera industriale, che questa Brexit avvenisse ma con, diciamo, certezza, e questo ovviamente non è accaduto. Ecco, tutto questo non è accaduto, ma quali potrebbero essere le conseguenze pratiche per le imprese italiane, ad esempio per quelle le tante imprese impegnate nella componentistica? Ma intanto le dico, la Gran Bretagna per le imprese italiane è uno dei maggiori partner commerciali, lo è in entrambi i sensi, nel senso che è un paese di export di vetture, di veicoli dal nostro paese, il quarto per importanza, ma per la componentistica è ancora più importante perché è il terzo paese per destinazione dopo Germania e Francia, ma rappresenta il paese col quale abbiamo il saldo di bilancia commerciale più elevato, circa 1,34 miliardi, quindi numeri veramente rilevanti, quasi il 20% del saldo di bilancia commerciale positivo della componentistica italiana sta nel rapporto con il Regno Unito. Le catene del valore sono fortemente interconnesse e quindi queste sono relazioni irrinunciabili per i componentisti italiani e i costruttori inglesi che si riforniscono presso le nostre aziende. In una fase come questa, in cui già il settore sta subendo gravi perdite come conseguenze ovviamente del coronavirus, non bisogna assolutamente, certo, rischiare di avere ulteriori problemi. Quali sono gli, certo, quali sono gli effetti pratici in caso di mancato accordo? E poi la domanda successiva sarebbe stata qual è invece secondo voi l'accordo migliore a questo punto, quello che porterebbe i maggiori vantaggi o i minori svantaggi per le imprese italiane? Allora, le conseguenze sono molto semplici. Si tratterebbe intanto di tariffe doganali e si tratterebbe di l'applicazione obbligatoria delle cosiddette regole non preferenziali del WTO, quindi vorrebbe dire sulle auto fino a un 10% di dazi e sui veicoli commerciali leggeri e autocarri fino a un 22% di dazi. Ah, però. Ovviamente le aziende non potrebbero assorbire questi dazi perché spesso e volentieri sono superiori ai loro margini, quindi vorrebbe dire un prezzo maggiore dei prodotti e quindi vorrebbe dire probabilmente meno prodotti sul mercato e quindi una perdita che si stima possa valere fino a 110 miliardi di euro da qui al 2025 da entrambe le parti, tra l'altro, quindi è da questo punto di vista siamo anche estremamente allineati con i colleghi inglesi, sia costruttori che componentisti. Che vogliono a loro volta un accordo per evitare questo sovrapprezzo, ovviamente. Ecco, ma allora quale sarebbe un accordo invece positivo per voi? Ovviamente un accordo positivo sarebbe quello di trovare un accordo che dal punto di vista dei dazi doganali, delle procedure doganali e dal punto di vista delle circolazioni, della libera circolazione delle, certo, persone fosse garantito, consentisse in qualche di modo mantenere lo, certo, status quo. Le faccio presente un dato che è estremamente rilevante. Chiaramente si tende a parlare sempre, come dire, delle tariffe doganali, degli impatti logistici, sono state fatte anche simulazioni recenti, degli ingorghi che si creerebbero, sì, via dicendo, infatti. Ma al di là di questo si stima che degli 820.000 addetti stretti della filiera industriale inglese, un 10%, quindi più di 80.000 persone, siano provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. E questo è un impatto fortissimo, tenuto conto che nella maggior parte dei casi, almeno per quanto riguarda gli italiani che lavorano nel Regno Unito, sono prevalentemente ingegneri, tecnici, manager, certo, e quindi si pone anche qui un tema molto importante. È per questo che diciamo, l'ideale è trovare un accordo che da questo punto di vista diciamo lasci le cose come stanno ora dal punto di vista tariffario, dal punto di vista della, certo, libera circolazione anche delle persone. Certo, e noi seguiremo ovviamente con grande attenzione l'evoluzione di questo accordo, di questo tentativo di accordo. Proprio nelle prossime settimane sono attesi passi importanti in questo senso. Termina qui la prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite Marco Stella, presidente del gruppo Componenti e vicepresidente di Anfia. Ci risentiamo tra pochi minuti per parlare di auto elettriche, ma di una sostanziale novità. Le auto elettriche adesso non assorbono energia dalla rete, ma sono anche in grado di cederla grazie ad un progetto di FCA. Ne parleremo tra poco, restate con noi. Strade e Motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo in questo spazio di e-mobility. Cerchiamo di capire un po' dove sta andando la mobilità intelligente del futuro e partiamo da un evento. Qualche giorno fa è stato inaugurato a Mirafiori un progetto pilota che si chiama Vehicle to Grid. In pratica, in soldoni, ma poi ce lo spiegherà ovviamente meglio il nostro ospite, per una volta le auto non prendono energia dalla rete elettrica, ma danno energia, quando ovviamente non gli serve, alla rete elettrica. È un concetto chiave per capire dove andrà la mobilità del futuro e per fare un po' questa panoramica, per tracciare questi scenari, il nostro ospite questa sera, Roberto Di Stefano, che è il responsabile e-mobility per la regione IMEA di FCA. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Tra un po' verremo al tema centrale di questa intervista, che è questo progetto interessante lanciato a Mirafiori qualche giorno fa, ma prima cerchiamo di inquadrare un attimo qual è lo scenario in cui si inserisce questo progetto. Noi abbiamo una mobilità di tipo elettrico che si sta sviluppando sempre di più, una mobilità che richiederà tanta energia ovviamente per poter garantire gli stessi livelli di efficienza che garantiscono attualmente i motori endotermici. Innanzitutto le volevo chiedere, dal suo osservatorio, come sta andando questa transizione? Sembra un po' a rilento, anche se c'è stata una brusca accelerazione grazie agli incentivi governativi, ma qual è la sua percezione? Ma guardi, allora, a seconda da dove la si guarda, la cosa cambia un attimino poi la risultante. Sicuramente il fatto che sembri a rilento dipende sempre dai numeri assoluti, che confrontati rispetto al mondo dei veicoli a combustione sono ancora abbastanza microscopici in generale in tutta Europa. Posso dire che però negli ultimi 12 mesi i tassi di crescita mese su mese, no, confrontati rispetto ai 12 mesi precedenti, ma anche mese su mese nel corso dell'anno, sono almeno a due cifre le percentuali di crescita dei veicoli elettrici, per cui la crescita sta prendendo il trend previsto. Oltretutto, noi avevamo previsto questo tempo fa, eravamo certi che prima di questo momento, di questo periodo, il mercato praticamente sarebbe stato rappresentato da poche unità, e avevamo previsto che in questa fase ci sarebbe stata una forte tendenza alla crescita di questo tipo di prodotto. La pandemia magari qualcosa ha impattato, sicuramente non sui veicoli elettrici, su tutta l'industria dell'auto è stato praticamente uno tsunami, ha travolto il mercato, lo ha azzerato per qualche mese, adesso i mercati stanno riprendendo anche grazie alle spinte di vari governi, all'incentivo a una delle industrie più importanti, più strategiche in termini anche, certo, di occupazione. Certo. Però posso dire che anche durante la fase pandemica, un po' per i backlog di ordinativi, che magari i costruttori erano in ritardo nelle consegne, ma le immatricolazioni di veicoli elettrici non hanno subito rallentamenti, anzi. Per cui ci aspettiamo che la transizione, ripeto, la transizione non è che parlo di un fenomeno di tra un anno saremo tutti con un veicolo elettrico, ma la transizione pianificata che dice che da qui al 2030 saremo in presenza di 10-15 milioni di veicoli elettrici in Europa è in corso e sta prendendo addirittura secondo noi un trend con una percentuale di crescita un po' superiore rispetto al piano, inizialmente previsto. Esatto. Bene, ecco, tutto questo si porta dietro un problema, anzi una conseguenza, che è quella legata alle energie, quindi alla necessità di dover alimentare queste auto elettriche quando non si alimentano da sole attraverso il meccanismo del mild hybrid e quindi della ricarica attraverso il motore endotermico. Se parliamo di plug-in, c'è bisogno di qualcuno che attacchi la spina e che quindi ricarichi queste auto, e qui veniamo al discorso energetico. Saremo in grado noi da qui ai prossimi anni a garantire energia a questo ricambio del parco veicolare? Ah, guardi, cito dei numeri. Ho citato prima un numero quando parlavo di qual è la prospettiva della penetrazione del veicolo elettrico. Ho detto 2030 circa tra i 10 e i 15 milioni di veicoli elettrici. Tengo ancora una banda ampia perché appunto parlo di numeri rispetto ad oggi di almeno un ordine di grandezza superiore, per cui siamo ancora, abbiamo ancora bisogno di avere una fascia ampia. Dunque 10-15 milioni di veicoli elettrici che connessi alla rete elettrica significherebbe un qualcosa abbastanza semplice, circa 900 gigawatt di potenza connessa al 95% del tempo, perché sappiamo tutti che un autoveicolo è più il tempo che sta parcheggiato fermo in attesa dell'utente che quello in cui viene impiegato per la mobilità. Questo numero, 900 gigawatt, sono più o meno 18 volte la potenza massima di picco del sistema italiano energetico, e il 70% circa della potenza installata che ci sarà nel paese nel 2030. Dunque, il 70% della potenza istantanea del sistema elettrico europeo potrà essere erogato dai veicoli elettrici che, essendo fermi, essendo un accumulatore con delle ruote, io lo traduco così, che per uno che deriva dall'industria automotive è un po' un colpo al cuore, ma vediamolo in questo senso, una batteria ferma, piena di energia, può essere un grosso servizio prima di stabilizzazione e poi di alimentazione di una rete elettrica energetica europea che sempre più avrà fonti di produzione dell'energia intermittenti, cioè il solare e l'eolico, certo, che sono fonti non continuative. Non possono essere costanti. Quindi lei dice, sì, è vero che assorbiranno tanta energia, ma rilasceranno anche questa energia, e questo proprio grazie a progetti come Vehicle to Grid. Arriviamo quindi all'inaugurazione di Mirafiori. Che cosa sta succedendo a Mirafiori? Dunque, a Mirafiori noi abbiamo definito più di un anno fa, insieme al partner, al nostro partner Terna, e al nostro partner tecnologico ENGIE EPS, di avviare una sperimentazione un po' più massiva che le sperimentazioni che sul vehicle to grid sono già in corso da tanto tempo e da più attori, per validare l'asset veicolare, dunque il veicolo, come uno degli asset utili a offrire servizi di stabilizzazione alla rete elettrica, appunto. Cosa faremo insieme ai nostri due partner? Il pilota verterà su un'attività effettuata presso il nostro plant di Mirafiori, il nostro park di logistica, dove in una prima fase avremo una settantina, 68 veicoli connessi alla rete con colonnine bidirezionali di tecnologia NGEPS che offriranno a Terna, che poi è il cliente di questi servizi, una potenza ottenibile fino a 1.5 megawatt. Se poi a fine anno 2020 la sperimentazione confermerà, come pensiamo, come siamo certi, perché abbiamo già fatto una prima fase in laboratorio, tutti gli obiettivi raggiunti e che confermano la validità di questa tecnologia, scaleremo in alto questa flotta di veicoli connessi per arrivare a 700 veicoli connessi, che rappresentano 15 megawatt di potenza offerta a Terna, più sommata al fatto che questi veicoli saranno fermi sotto un impianto di produzione fotovoltaico per ulteriori 10 megawatt. In sintesi, dal Mirafiori noi offriremo servizi ancillari di stabilizzazione alla rete elettrica nazionale fino a 25 megawatt di potenza, che equivale a una piccola centrale elettrica e rappresenterà la sperimentazione più grossa al mondo, ad oggi almeno annunciata ad oggi, e poi può essere che domani arrivi un altro con qualcosa di più importante. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Roberto Di Stefano, responsibile e-mobility per la regione IMEA di FCA, che ci ha raccontato delle ultime evoluzioni appunto di questa e-mobility, a cominciare dal progetto Vehicle to Grid. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo!